Guarda quello come ti sta guardando le cosce. Fagliele vedere, forza. Dai, a me piace che la gente si arrabbi con la mia nipotina puttanella. Su, scopriti di più, forza. Guarda, guarda che cosce. Sono proprio, proprio felice di averti ritrovata. Senti, siccome stanotte voglio rifarmi al gioco, dovresti prestarmi qualche verdone. Ma non ti bastano tutte le marchette che mi hai fatto perdere? Non fare la varaccia. Scopri le cosce un altro po'. Guarda quei due sulla porta. Ti stanno divorando con gli occhi. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Il gioco della bottiglia è stato un po' il simbolo della nostra generazione. Era dove ognuno di noi realizzava i propri sogni più segreti e dove vinceva le proprie timidezze. Quasi non credo ai miei occhi quando la vedo davanti al cancello che mi sta aspettando con una bottiglietta di Coca-Cola in mano. Storie di giochi della bottiglia e di case chiuse in una puntata tutta dedicata al vizio della lussuria. Come giustamente diceva Danilo in apertura e come sottolineava anche la citazione dal film Paprika di Tinto Brass, oggi si parla di lussuria, oggi si parla soprattutto di due cose ben precise. Si parla del gioco della bottiglia, che per quelli della nostra generazione, non so quanti anni abbia Danilo, però grosso modo tra i 40 e i 50, ha rappresentato una sorta di porta verso il paradiso. Nessuno di noi, cioè nessun ragazzo della mia età, immaginava che in una sera d'estate in montagna o al mare, più in montagna secondo me, perché al mare facevi falò intorno alla spiaggia, facevi falò sulla spiaggia e suonavi la chitarra, o se non accendevi il fuoco perché altrimenti arrivavano i vigili urbani, comunque la chitarra ce l'avevi. In montagna far passare una serata era veramente complicato. Quindi a un certo punto, quando qualcuno ha cominciato a dire giochiamo al gioco della bottiglia, ed eri in 5, in 6, in 7, c'erano due ragazze, una delle quali era bellissima e tu non avevi assolutamente idea di come avvicinarla, beh, questa era veramente la porta per il paradiso. Cioè bastava che quella bottiglia girando indicasse prima te e poi lei, e a quel punto era fatta. Poi c'erano diverse varianti per cui potevi, vabbè, obbligo verità, oppure la bottiglia, io giro la bottiglia e quindi sono io quello che diciamo sta giocando e chiunque indichi è la persona che devo baciare. Vabbè, tant'è, ci siamo capiti. Comunque sia, il gioco era che spesso e volentieri ci ritrovavamo in pochissimi a giocare al gioco della bottiglia, eravamo in tre o quattro e quindi davvero non sembrava vero che quella cosa lì stesse accadendo. Quindi viva il gioco della bottiglia, e oggi vi racconteremo una storia di Danilo che la racconta molto molto bene. Se siete coetanei o avete vissuto quell'esperienza, beh, insomma, preparatevi a momenti di grande malinconia rispetto a quell'epoca. E poi invece raccontiamo una storia che è molto più radicata nella storia di questo paese, perché oggi è il 20 di febbraio e il 20 di febbraio di 62 anni fa, cioè il 20 di febbraio del 1958, passava la legge Merlin. La legge Merlin è la legge che ha decretato la chiusura delle case chiuse, cioè in sostanza ha abolito la regolamentazione della prostituzione, ha chiuso quelle che venivano chiamate le case di tolleranza e ha introdotto i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione che esistono ancora oggi. Oggi vi leggeremo alcune lettere davvero strazianti di alcune ex prostitute o prostitute che scrivevano proprio alla senatrice Lina Merlin. Lina Merlin è stata una donna di uno spessore incredibile, era una donna che era nata in Veneto e aveva aveva partecipato al movimento antifascista, poi era stata mandata al confino proprio perché antifascista, era stata in Sardegna per 4-5 anni mi pare, e ovunque la mandassero in Sardegna, da Dorgali a Nuoro, lei diventava la capa delle donne della città o del paese, quindi ogni volta dovevano spostarla perché lei arrivava e immediatamente non solo faceva amicizia con le persone del paese, ma diventava un riferimento soprattutto per le donne di quel luogo. E poi è stata parte dell'Assemblea Costituente fino appunto a varare la sua legge, la legge che porta il suo nome, la legge Merlin, esattamente il 20 febbraio del 58. E oggi, oltre a raccontarvi quella storia, vi racconteremo alcune lettere delle donne che scrivevano direttamente a lei per ringraziarla e per raccontarle la loro storia. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Come si può manifestare la lussuria ad un ragazzino che nell'88 ha 16 anni? A quei tempi gli approcci con l'altro sesso si concretizzavano tramite giochi di società alle feste di compleanno. Di tutti questi, il più quotato e il più diretto era sicuramente il gioco della bottiglia. Semplice e sbrigativo. Tutti in cerchio seduti a terra. Al centro una bottiglia che si faceva ruotare a turno. Appena si fermava, la persona puntata e quella che l'aveva messa in moto dovevano baciarsi sulla guancia. Succede che in quella lontana estate del 1988, in montagna dove avevamo la casa, la bella e schiva vicina di casa del mio migliore amico, nostra coetanea, ha il monopolio dei miei pensieri. Purtroppo però la ragazza non frequentava mai di giorno la nostra compagnia perché era sempre in giro con genitori e fratellino. A un certo punto non ce la facevo più e decisi di confessare al mio amico il mio interesse per la sua vicina di casa. Lui sorrise e mi disse che se era solo quello il problema, la soluzione era a portata di mano. Mi raccontò infatti che se era vero che di giorno era sempre in giro con i suoi genitori, a volte la sera passeggiava da sola sotto casa. Aggiunse anche che era capitato addirittura che si fermasse con il mio amico e altre ragazze che conosceva a giocare al gioco della bottiglia. Il sangue mi andò letteralmente alla testa quando mi disse che loro usavano darsi un bacio a stampo sulle labbra. Questa ragazza non la conoscevo personalmente, ma l'avevo già vista da distanza. Sapevo che era abbastanza intima con il mio migliore amico. Era alta, capelli chiari, occhi azzurri, insomma era un po' lo stereotipo della ragazzina che può piacere a quell'età lì. E era solare comunque e non era una persona che assolutamente se la tirava, tant'è vero che ho preso subito la palla al balzo quando il mio amico mi ha proposto di presentarmela e di conoscerla. Alla velocità della luce mi faccio organizzare una serata dal socio. Tempo 2 giorni e lui mi dice che non ci sarebbero stati problemi, che lei aveva dato il consenso per fare questo piccolo raduno a 3. Rimaneva solo un piccolo problema logistico da risolvere. Il condominio dove vivevano loro era a circa 1 chilometro dal mio e la sera, oltre che essere obbligato a rincasare non oltre le 10:30, mi dovevo portare anche dietro il mio fratellino. Nicola, questo è il nome del mio amico, il giorno della sera prestabilita, mi dice che l'orario concordato è per le 10 e che comunque avrei dovuto presentarmi da solo. Io sono titubante perché so che la cosa potrebbe portarmi dei guai con mia madre. Lei è sempre stata molto intransigente riguardo all'orario di ritorno a casa e soprattutto non avrebbe mai ammesso che io non portassi con me mio fratello. Arriviamo all'ora prestabilita e prendo la decisione, così, su 2 piedi, di allontanare mio fratello, che ovviamente non vuole mollarmi. Lo rispedisco a casa a male parole. Dopodiché salto sulla mia bicicletta da cross e pedalo fino all'altro condominio. Quasi non credo ai miei occhi quando la vedo davvero davanti al cancello. È lì, mi sta aspettando con una bottiglietta di Coca-Cola in mano. Ci sediamo in un angolino e iniziamo a turno a far girare quel prezioso strumento di piacere. Chiaramente, essendo soltanto in 3, le probabilità giocano tutte a nostro favore e non so quanti baci ci siamo scambiati quella sera. Ero inebriato dalla felicità e dalla facilità con la quale avevo ottenuto quello che qualche settimana prima non osavo nemmeno sperare. Si dice che i baci sono come le ciliegie, che una tira l'altra. Ma io solo alle 11:15 della sera mi ricordo di guardare l'ora. All'epoca esistevano delle regole per noi ragazzi, non è come adesso che c'è molta più libertà. Rigorosamente, anche se eravamo in una località di vacanza avevamo un orario di rientro definitivo. Mia madre era particolarmente severa e pretendeva la puntualità assoluta, 10:30 e non erano le 10:31, se no poteva scoppiare veramente la terza guerra mondiale. Io do un ultimo bacio, poi inforco la mia bici e parto alla velocità della luce, sperando di poter valicare i confini dello spazio-tempo, cercando di meditare una possibile scusa da vendere a mia madre, che sicuramente avrei trovato a casa infuriata. Sull'ultima curva si materializza dal bordo della strada. È lei. Mi urla che dalla finestra stava aspettando di vedere comparire il mio lumino della bicicletta. Mio fratello chiaramente era corso a casa, lamentandosi del mio trattamento. Io provo ad abbozzare con un innocente «Ma cosa ho fatto?» La mia frase scatena l'inferno. «Cosa hai fatto?» mi ripete lei a denti stretti. Poi, con la precisione letale di un battitore professionista, mi allunga uno scappellotto dietro la nuca che mi fa rimbalzare la testa contro il manubrio. Quella è stata l'ultima volta che le ho prese. Ma che dire, era valsa veramente la pena per rubare quella manciata di baci. Vi avevo avvertito che c'era tutto un mondo di estati in montagna e di sedicenni, devo dire, anche abbastanza arrazzati quando si parla di gioco della bottiglia, e Danilo ce l'ha raccontato benissimo. Pronto, ciao Danilo, buongiorno. Ciao carissimo, ciao, come Senti, stai? Io sto benone. Parliamo dalla parte fine, partiamo dalla parte, diciamo, più importante, che è la sberla della madre sul coppino che ti fa rimbalzare la testa sul manubrio. Questa è una cosa che oggi che non si potrebbe mai più fare. Ci sarebbero persone che denuncerebbero le madri per una cosa del genere. Ai nostri tempi, invece, grosso modo, non dico che successe tutti i giorni, però era una cosa che era uno dei rischi che poteva accadere, anche se tu dici è stata l'ultima volta che le ho prese. Sì, diciamo che all'epoca nostra quello lì era un must educativo, nel senso siamo riusciti a sopravvivere a quello e siamo diventati quello che siamo grazie a quello. Diciamo di sì, perché poi, come dicevo, l'età che avevo era sui 16 anni, in linea di massima poi mi sono sempre comportato bene, quindi mia madre non ha più avuto necessità di incorrere in quel metodo correttivo. Comunque me lo ricordo ancora adesso, lo sento ancora sia la fronte che il coppino. Che cosa fai, Danilo, nella vita adesso? Ma io lavoro con un'azienda che ci occupiamo della distribuzione dei pasti all'interno dell'ospedale qua di Genova del San Martino. Ok, che tu fossi di Genova avevo una vaga sensazione. Ti così. Senti un pochino. A naso e orecchio un pochettino sì. Senti, invece di che località di montagna stiamo parlando? Stiamo parlando di Artesina, che era una località sciistica in provincia di Cuneo, dove ci recavamo però anche d'estate, perché poi d'estate si andava a fare le passeggiate, gite. Perché avevate un appartamento, mi sembra di capire. Avevamo un alloggio lì, sì, avevamo un alloggio. Era un po' la nostra fuga, la nostra libertà, anche perché all'epoca, come poi ho anche detto nel racconto, tanta libertà non l'avevamo, perché in città non potevi uscire, avevi comunque orari di sera, no, lì era un attimo lo sfogo, cioè un po' la vita anche di paese, se, che anche non c'era se più. 10:30 orario tassativo, si doveva tornare a casa. 10:30 sì, mia madre non transigeva, era proprio una regola, la puntualità, che ora oggi poi la ringrazio perché è una cosa per la quale vengo anche apprezzato. Me l'ha insegnata all'epoca, ma all'epoca l'ho subita. Quella di comprare gli appartamenti in montagna è stata proprio una cosa che ha appartenuto ai genitori, ai nostri genitori. Sì, era proprio l'era dei nostri genitori. Un appartamento in Valsesia dove passavamo tutte le estati e come te ci trovavamo a fare il gioco della bottiglia, tra l'altro in tre, perché scusami, alla fine sbaglio o siete tu, il tuo amico e la sua vicina di casa? Sì, perché chiaramente era una mezza trappola per metterla a mezzo, e anche perché se fossimo stati più partecipanti si suddivideva il rischio, invece era stata proprio organizzata volutamente per poter dare libero sfogo alle nostre, diciamo, ai nostri desideri. Baci a stampo però, insomma, non era bacio alla francese. No, all'epoca era bacio a stampo, ma era già stata una conquista. Cioè, sono a casa non mi sono acceso una sigaretta perché non fumavo, ma mi sentivo veramente il dio della conquista. Senti, dopo quella sera l'hai più rivista? No, non dico ci sei uscito, però. No, diciamo che l'ho rivista per qualche altra stagione lì in montagna, però poi vabbè, non si è, diciamo, replicato l'evento. Okay. E poi però ci siamo persi proprio di vista, nel senso che poi crescendo lei non ha più frequentato quella località, io anche, dovessi dirti la verità, saranno 20 anni, 30 anni che non ne ho più, non neanche notizie. All'epoca poi la nostra generazione non avevamo Facebook, non avevamo WhatsApp, quindi ti perdevi, certo, immediatamente. Però ho scoperto che esiste, proprio perché la tua storia me l'ha fatto ricordare, ho fatto una ricerca e c'è una app che si chiama Gioco della Bottiglia. In pratica tu metti il telefono, te lo giuro, tu metti il telefono sul tavolo, c'è un disegno di una bottiglia che gira, puoi anche inserire i nomi dei partecipanti in modo che non c'è rischio di è un po' più verso di me, un po' più verso di te, quindi così se per caso non sapete cosa fare, vedi tu Danilo, io ti ringrazio intanto per la storia e la chiacchierata, a presto. Grazie anche a voi, grandissimi, grazie, in bocca al lupo per tutto, ciao, grazie. Ora sentiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a Linea d'Ombra. Radio 24 si sintonizza con te. Partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio e dacci i tuoi voti. Raccontaci le cose che ami e quello che ti aspetti dalla radio che hai scelto e che ascolti. Aiutaci a diventare la tua radio ogni giorno di più. Vai su radio24.it e partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio. La tua opinione è fondamentale per migliorarci. Linee d'Ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Lo dicevo in apertura, è una puntata dedicata al vizio della lussuria, ma è una puntata, soprattutto che cade il 20 di febbraio. E 60 anni fa, più di 60 anni fa, 62 anni fa, il 20 febbraio del 58, veniva approvata la legge 75, più nota come legge Merlin, ovvero abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. Con questa legge vennero abolite le cosiddette case chiuse, cioè si eliminò l'organizzazione della prostituzione da parte dello Stato. Le persone che si prostituivano vennero liberate dalla schedatura per motivi sanitari e di polizia e dalla stigmatizzazione sociale. Di quella condizione rendono drammatica testimonianza le lettere indirizzate alla senatrice Merlin dalle Donne di Vita. La senatrice raccolse le loro lettere e nel 55 ne fece un libro, che oggi è stato di nuovo pubblicato dalla casa editrice del gruppo Abele. Le staffette, si intitola. Nella prefazione del libro la senatrice Lina Merlin scrive: di fronte alle lettere il lettore si pone naturalmente una domanda. Perché mai queste ragazze che si dichiaravano favorevoli alla chiusura delle case non ne sono subito uscite o non escono spontaneamente? È una domanda che in queste lettere trova ampia risposta. La ragazza della lettera numero 33 è andata a sposa a un militare di carriera, ad esempio, ma ora il marito rischia di essere allontanato per sempre dal servizio perché carabinieri e questura hanno dato parere sfavorevole in relazione al passato della moglie. Credevo, scriverei, che la mia felicità di donna onesta sarebbe durata, ma vedo che il giudizio degli uomini è troppo duro verso noi povere peccatrici che ci siamo rimesse sulla buona strada. Di questa casistica, che esemplifica alcuni motivi che sono di impedimento all'uscita delle case, le lettere danno un panorama ampio che conclude l'immagine parabolica di una situazione che sta a terribile denuncia di una società. Perché è questa nostra società che costruisce sulla miseria e sul dolore altrui le valvole di sfogo di una morale filistea. Ed è ancora questa società che, dopo averle sfruttate, uccide legalmente, in nome di quella stessa morale, le sue vittime, che sarebbero, al dire degli ipocriti, necessarie a preservarla. La voce delle sventurate si eleva da queste pagine a esprimere col pathos che circonda la denuncia di una sconfitta, la condanna di una società che le ha condannate. Servano queste lettere a far riflettere coloro che di fronte al problema si sono dimostrati scettici sulla bontà della mia iniziativa e a confortare quanti auspicano che il nostro paese rimuova i pregiudizi che lo legano alle peggiori tradizioni del passato. Lina Merlin. In questa puntata dedicata al vizio della lussuria, la seconda sera di oggi è quella di una ragazza di vita. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Gentile senatore Merlin, dicono che mi metteranno in galera appena chiudono le case, ma io non ho mai fatto del male a nessuno e in galera non ci voglio andare. Ci vadano i padroni che ci sfruttano il sangue a tutti noi. Sono una di quelle, ma non ero così e volevo crescere onesta. Invece, a 15 anni, in una baracca, mio cognato mi prese per forza e poi mi minacciò sempre di dirlo a mia sorella che ero stata io. Appena mi accorsi di essere grossa, scappai di casa e andai a fare la serva in un'osteria. Quando si accorsero che dovevo fare il bambino, mi dissero che ero una puttana e che se volevo rimanere ancora lì, dovevo lavorare senza paga, perché già il mangiare e il dormire era troppo per quello che facevo. Invece lavoravo come una soma e quando alla maternità feci il bambino non avevo latte e lo portai a balia e mi dissero che se non pagavo prima non me lo prendevano. Incontrai un soldato che mi disse: sei una brava ragazza, i soldi per il bambino te li trovo io che ho la terra al paese e poi ti sposo. Allora i miei padroni dell'osteria glielo dissero che lo avevo avuto da mio cognato e che era una puttana e che anche lì facevo la puttana. Invece non era vero e lavoravo sempre come una soma e mi davano da mangiare quello che avanzavano gli altri e dormivo sul pianerottolo con un materasso per terra. Allora lui disse: mi hai detto bugie e non ti guardo più, e non l'ho più visto. Allora uno che veniva all'osteria mi ha detto: se sei brava te li trovo io i soldi, basta che qualche volta vieni con me, se no niente soldi per il tuo bambino, e mi avrebbe fatto licenziare dove lavoravo, diceva. Mi portava sempre fuori, diceva che dovevo andare anche con i suoi amici, se no niente soldi per il bambino, e mi avrebbe fatto arrestare. Un giorno una come me mi disse: va là stupida, perché ti fai sfruttare? C'è un posto che guadagni bene e poi vai in America con il bambino e nessuno ti vede più. Invece era d'accordo con lui e sono finita in una casa e non le dico cosa ho passato e tutti i soldi me li portano via i padroni e lui che è d'accordo. Quando voglio scappare mi dice che il mio bambino me lo portano via e se esco mi mettono in galera e in galera e senza il mio bambino non ci voglio stare. Non sono vecchia, sono frusta, ho 24 anni. Il mio bambino le monache non lo vogliono perché dicono che è bastardo e dove me lo tengono costa tanti soldi, ma lui non deve sapere che sua mamma è una puttana. Sono sempre malata, che non ho la forza quasi di alzarmi dal letto e sono in una casa bassa e allora qui ci posso stare. They call me the wild rose. First day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. My name was Eliza Day. Tanti mi dicono perché io che sono brava sono finita lì. E la padrona che è d'accordo con lui mi dice adesso la senatrice chiude le case e se non sei d'accordo con noi ti mettono in galera con il tuo bambino. È vero che mi metteranno dentro se chiudono i casini? Senatore, invece di farmi mettere dentro mi potrebbe mandare all'ospedale con il mio bambino e a farci curare? Perché il bambino ha sempre qualcosa e il dottore dice che è il sangue non buono. Invece io il sangue buono prima ce l'avevo. Invece che non gli hanno mai dato tanto da mangiare, perché si approfittano che io non ci sono e dicono che il denaro non basta, lui patisce la fame e c'è sempre qualcosa. Non mi faccia mettere dentro. Me l'ha detto uno che è venuto qui, che lei, senatore, è una brava persona. E allora io ho detto ci scrivo e se è una brava persona mi aiuta. Non ho mai fatto male a nessuno e sono una povera ragazza sfruttata sempre. Sono una di quelle, ma per mio bambino farei di tutto. Non dica a nessuno il mio nome, perché se lo sanno che le scrivo mi fanno ancora del male, e al mio bambino che non sa che sua mamma è una puttana e mi crede brava. Il mio bambino lo faccio pregare per lei se mi fa ritirare con il mio bambino all'ospedale in un posto che nessuno sappia chi sono e se mi stracciano il libretto, perché è meglio morire tutte e due piuttosto che questa vita. Ce ne sono tante altre povere signorine come me che non c'hanno colpa e che hanno paura. Hanno bambini da aiutare, gente cattiva che le sfrutta. Ma se invece di metterci in galera ci aiutano tutte, allora sarà una gran bella cosa. I meglio saluti e mi aiuti che il mio bambino pregherà per lei. La lettera che vi abbiamo appena letto l'abbiamo trovata nel libro Le Staffette, il libro che la stessa senatrice Lina Merlin aveva scritto con tutte le lettere che le prostitute ed ex prostitute le avevano scritte dopo la sua legge, dopo la legge che chiudeva le case chiuse. Ora sentiamo Le Strade in diretta e poi torniamo qui a Linea d'Ombra. Sono Gianluca Nicoletti e nel mio nuovo podcast In Viaggio con Tommy vi racconterò settimana dopo settimana il viaggio che sto facendo con il mio figlio autistico alla scoperta dello straordinario perduto, perché alla fine solo nell'arte c'è posto per i cervelli ribelli. Potete ascoltare ogni tappa della nostra avventura dal sito di Radio 24. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Nel giorno dell'anniversario della legge Merlin, a 62 anni di distanza, vi abbiamo poco fa raccontato la storia di una giovane prostituta che scriveva a Lina Merlin e che poi ha pubblicato tutte quelle lettere che quelle giovani donne le hanno inviato per testimoniare che appunto la sua legge, il fatto di chiudere quel tipo di case, quelle case chiuse, era stata una legge buona, testimoniato proprio anche dai racconti di queste donne. Per saperne un pochettino di più anche della situazione attuale, noi abbiamo abbiamo al telefono con noi Pia Covre, che è attivista italiana per i diritti civili e che appunto sicuramente ne sa un pochettino più di noi. Pronto signora Pia Covre, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Grazie mille per essere qui innanzitutto. Grazie a voi. Senta, lei ci sa raccontare un pochettino in qual è la situazione della prostituzione oggi in Italia? Si hanno dei numeri precisi? Si conosce una condizione media generale delle donne che fanno questo lavoro? Ma guardi, non ci sono numeri precisi perché grazie a Dio con la legge Merlin si è tolto l'obbligo di registrazione, quindi questo in teoria è diventato un lavoro autonomo, indipendente e non soggetto a nessuna registrazione di polizia e così via. Quindi numeri certi non ne abbiamo. Le stime oscillano tra i 70.000 e le 100.000 unità, quindi c'è anche una molto oscillante. Certo, sì, la forbice è molto larga. Noi siamo stati abituati in tanti anni, abbiamo sempre visto la prostituzione in strada, che è quella più visibile, ed era in passato sicuramente la maggioranza. Oggi questa cosa visibile in strada si è molto ridotta per una sorta di cambi tecnici, anche se vogliamo. Oltre ad essersi molte donne preferisce lavorare al chiuso, quindi dentro a degli appartamenti e gestirsi autonomamente, si gestiscono anche gli appuntamenti del lavoro attraverso i siti web. Certo, quindi certo. È cambiato profondamente l'aspetto della prostituzione. Gli unici dati certi che abbiamo, che sono abbastanza precisi, sono quelli che le unità di strada rilevano le presenze in strada periodicamente, e abbiamo un quadro abbastanza attendibile. Parliamo oggi di circa probabilmente 7.000 donne, 7-8.000 donne che lavorano in strada, quindi poche tutto sommato in Italia, perché si è rivoluzionato proprio l'aspetto del lavoro del sesso commerciale. Signora Covre, voi siete contrari alla riapertura delle case chiuse, mi sembra di capire, però allora, siete a favore di una regolamentazione? No, allora noi prima di tutto vorremmo che ci fosse una vera decriminalizzazione, okay. Nel senso che non credo che vadano criminalizzate in nessuna maniera le persone che vendono o comprano servizi sessuali, quando questi sono accordi fra adulti consenzienti, quindi autodeterminati e non forzati. Ma anche se la prostituzione non è un reato in sé, giusto? Lo sfruttamento non lo è un reato. Infatti, e quindi una persona maggiorenne dovrebbe poter decidere e disporre di sé come vuole. In realtà poi non è così, perché ci sono tutta una serie di paletti e di limiti, e non si può essere favoriti, non si può essere aiutati, insomma in qualche maniera. Vorremmo comunque che rimanesse fermo il fatto che lo sfruttamento va punito, non okay. Si può sfruttare e approfittare. Dopodiché noi non vorremmo una regolamentazione su quel modello che erano le case chiuse di prima, vorremmo una cosa più moderna, nel senso che una persona autodeterminata che decide di fare questo lavoro venga riconosciuta come lavoratrice. Poi, come lei decide di gestirsi questo lavoro, sono scelte personali. Una può decidere di lavorare insieme, magari una piccola cooperativa, lavorare insieme ad altre perché si sente più sicura, un'altra preferisce lavorare da sola nel suo appartamento attraverso la pubblicità su internet. Devono essere scelte possibili. La strada è l'ultimo, diciamo così, l'ultima spiaggia dove noi vediamo le persone più, magari più in difficoltà, più vulnerabili, quelle che non riescono ad auto-organizzarsi, magari a trovare una casa in affitto e così via. E quindi io non credo che vada soppressa questa cosa, ma vada fortemente sostenuta, aiutata. Cioè, la strada è il posto dove le donne sono visibili, e quindi se le più vulnerabili stanno là, noi possiamo vederle e anche raggiungerle e anche aiutarle, e da lì far emergere anche quei casi di sfruttamento e anche di sfruttamento grave di persone magari non libere, come capita appunto con le donne vittime di tratta. Chiaro. A questo proposito, questo è il nostro disegno. Chiarissimo, chiarissimo. A questo proposito, signora Covre, poi la ringrazio e la saluto. La grande domanda che sta sempre sotto quando si parla di donne che fanno questo mestiere è una donna che sceglie di fare la prostituta è veramente libera? Cioè ha veramente scelto lei, o si è trovata nelle condizioni per cui sì, è stata la sua ultima possibilità? Ci sono molte donne che lo scelgono con opzioni altre, diverse possibilità di lavoro. Io sono stata una di queste, ma ce ne sono anche altre, anche oggi non siamo, cioè non c'è in questo mercato una cosa uniforme. In più non parliamo più solo di donne, parliamo anche di uomini e anche di transgender, cioè questa è una possibilità di occupazione, di lavoro, che dovrebbe essere riconosciuta in quanto tale e rispettata come dire, nel senso che non va stigmatizzata, ognuno può disporre della propria vita, della propria, anche della propria sessualità come crede, quindi non deve essere stigmatizzata, ma devono essere anche riconosciuti i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, anche perché dovrebbero avere anche dei doveri, quello di pagare le tasse, ma le tasse si pagano in un contesto dove vengono anche riconosciuti i diritti. Chiarissimo, quindi, insomma, parità di... siamo capite. Assolutamente, è stata chiarissima e la ringrazio molto per i suoi chiarimenti. Grazie ancora Pia Covre, in bocca al lupo per tutto, giornata. A presto. I do my head toss, check my nails, baby how you feeling? Head toss, check my nails, baby how you feeling? Shoulders off, keep it moving, yes Lord, trying to get some new shit in there, swimwear, going to the pool shit, come now, come dry your eyes, you know you a star, you can touch the sky, I know that it's hard, but you have to try, if you need advice, let me simplify, if he don't love you anymore, just walk your fine ass out the door, I do my hair. Siamo ormai nel cuore della prima settimana della nuova storia seriale che Mauro Pescio raccoglie e racconta per noi e siamo con Cheryl. Cheryl è la protagonista di questa storia che si è trovata in una giornata davvero maledetta il 14 febbraio del 2018, di 2 anni fa, in questa scuola in Florida. Lei è di genitori italiani ma di fatto americana, nella scuola in cui c'è stato un massacro davvero davvero incredibile, una sparatoria che ha lasciato 17 giovani ragazzi morti a scuola e 17 sono rimasti feriti. Si parla di Superbia e anche capirete il perché. In questo episodio soprattutto la cosa più sconvolgente è che lei ci racconti come ormai negli Stati Uniti ci si prepari ad attacchi come questi. So we've been surrounded by it, but you somehow never really think that. Ma tutto questo, anche se ripetuto spesso, non ti fa immaginare che possa accadere nella tua scuola. La verità è che per quanto ci si possa preparare dentro di te, nel profondo, pensi che non possa mai accadere a te, alle persone che conosci e nella scuola che frequenti. Non ti svegli la mattina pensando che quello potrebbe essere il giorno, non usi tutte quelle precauzioni che ci hanno insegnato, perché sarebbe impossibile. Una cosa molto importante che ti insegnano è di evitare le chiamate ai genitori, di non chiamare nessuno, di spegnere il telefono in modo che non ti possano arrivare chiamate, di non fare assolutamente niente, di stare il più tranquilli possibile, di aspettare. Una chiamata in entrata potrebbe rivelare la tua posizione all'assassino, che potrebbe venire a cercarti e ucciderti. La cosa che ha confuso molte persone quel giorno è stata che era in atto un'esercitazione. Non sapevamo che c'era un attacco in atto fino a quando non è scattato il codice rosso. Il codice rosso indica che c'è un attacco. Ma quel giorno c'era l'esercitazione e durante le esercitazioni si fa tutto come se si fosse sotto attacco, tranne usare il codice rosso. Quest'ultimo scatta solo in caso di attacco reale con armi da fuoco. Quel giorno invece il codice rosso è scattato e a noi avevano insegnato che in caso di codice rosso bisogna stare chiusi nelle aule. Ma in quel momento eravamo tutti fuori dalle nostre classi, per via dell'esercitazione appunto. Il nostro compito, per il tipo di esercitazione in corso, consisteva nello stare il più lontano possibile dagli edifici scolastici. Tutti noi eravamo fuori dai nostri palazzi, ma al codice rosso saremmo dovuti entrare negli edifici e poi conseguentemente nelle classi. Il nostro compito sarebbe stato quello di dirigerci velocemente nelle aule e di stare lontani il più possibile dalle finestre, in modo da non indicare a nessuno la nostra presenza e non diventare un obiettivo. C'è stata parecchia confusione. Alcuni si sono infilati nelle classi, i primi che sono riusciti a salire, anche una delle mie migliori amiche, ed è stata freddata là dentro. Altri invece, quando si sono accorti che quella in atto non era una semplice esercitazione, ma un assalto di quelli veri, sono scappati. Sapevano cosa fare, ma la verità è che ancora una volta, quando arriva il momento, quello vero, per quanto si siano fatte tutte le esercitazioni e si siano sempre seguite le regole, non si sa come si reagisce. La verità è che in quel momento nessuno sapeva cosa fare. Ed è stato così per tutto il giorno, perché nessuno è davvero preparato perché una cosa del genere avvenga nella scuola che frequenta. La chiudiamo così anche questa puntata di oggi di Linee d'Ombra. La storia l'avete sentita, se volete recuperarvi la nostra storia seriale potete andare in podcast sul nostro sito o ovunque scarichiate la vostra app, ma soprattutto se avete voglia di continuare a mandarci le vostre storie, proprio come ha fatto Danilo, lineedombra@radio24.it. Una storia che vi riguarda, che abbia a che fare con un confine, con una zona d'ombra, noi la prendiamo e ci facciamo un'intera puntata. Adesso sentiamo il GR e poi torniamo ovviamente domani puntuali alle 15 per raccontare storie, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!